Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Qualcuno oggi vi ha fatto arrabbiare, chiamatemi, ci penso io, anzi ci pensiamo noi. Buongiorno al professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la casa di cura San Benedetto ad Albese Concassano, professore all'università di Maastricht in Olanda e da poco anche all'università di Miami. Questo mi fa arrabbiare. Perché tutte a me lei? No. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E buongiorno a Ciro Imparato, autore di un libro di cui parleremo oggi, ma su cui posso dire ci eserciteremo oggi. Si intitola La voce verde della calma. Un libro che nasce dalla ricerca di Ciro Imparato nel campo delle emozioni della voce. Buongiorno a Ciro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di calmarci, professor Perna, cerchiamo di capire qualcosa di più della nostra rabbia, che come sappiamo è un'emozione primaria, antica, primitiva, presente negli uomini e anche negli animali. Ci si arrabbia per tanti motivi. Mi fa arrabbiare, come si manifesta la mia rabbia? Perché mi viene da piangere, quindi questa mia reazione mi fa proprio arrabbiare. E questa la, non mi va di piangere, di controllarla in questo modo, e forse la cosa che mi indispettisce di più dell'arrabbiarmi. Molte volte, quasi tutti i giorni. Mi fa arrabbiare la gente ignorante quando mi pestano i piedi. Sì, spesso. Si manifesta gridando e innervosendomi. Il traffico in prima linea e le ingiustizie, l'arroganza, la prepotenza, queste sono le cose che secondo me mi fanno più arrabbiare. E a voi che cosa fa arrabbiare? Come gestite la vostra rabbia? Esplodete? Contate fino a 10? Volete darci una definizione? Oggi abbiamo ben 4 libri di La voce verde della calma che vogliamo far che voi riceviate. Basta che vi mettiate un po' in gioco, quindi raccontateci che cosa vi fa arrabbiare, dateci una definizione della rabbia, un vostro modo per gestirla. Un'ascoltatrice su Facebook mi scrive: io non mi arrabbio, sono diversamente calma. Quindi 4 libri via sms al 349-238-6666, al nostro numero verde 800-24-0024, via mail esserebenessere@radio24.it e sul nostro profilo Facebook. Professor Perna, rabbia. Rabbia è un'emozione importante perché ha diverse funzioni. Una funzione è quella difensiva, ci si arrabbia per difendersi spesso, quindi la persona attaccata invece che pietrificarsi o fuggire controbatte e quindi attacca. Un'altra funzione importante, questa storicamente anche negli animali, è quella proprio predatoria, no? Per arrivare a raggiungere la preda, quindi per la sopravvivenza. Un'ultima funzione fondamentale è quella della comunicazione. Noi con la rabbia comunichiamo agli altri e comunichiamo il nostro stato d'animo e creiamo quella che è la distanza fra noi e gli altri che ci permette poi, se siamo abili, di arrivare a negoziare, a confrontarci in maniera corretta. Quando noi ci arrabbiamo, qualche cosa in noi si modifica, il battito cardiaco, no? diventa più veloce, le pupille si dilatano, diventiamo rossi, anche i peli si alzano, ma cambia la voce. Ciro, ci diamo del tu. Sì, certo. Ecco, una voce che ha un colore particolare. Sì, una voce nera, una voce che esprime tutto quello che noi in quel momento stiamo provando di molto disagevole. La rabbia è una cosa giusta quando ha un suo motivo, ma noi siamo purtroppo tante volte preda di una rabbia non giusta, cioè di un'abitudine alla rabbia, per cui qualunque cosa capiti le persone ormai sono esasperate e si arrabbiano e probabilmente si può far qualcosa per... Mi fai la voce nera? Non faccio la voce nera mai, perché far la voce nera provoca nelle persone uno stato di disagio. Sarebbe come se tu mi chiedessi, ci diamo del tu, giusto? Certo. Come se mi chiedessi di mettere per scherzo due dita nella 220. Sì. Non si può fare per scherzo. Allora fammi una voce verde. La sto già facendo. Che è la voce caratterizzata da un volume medio-basso, un tono basso, un tempo lento, pause esitanti e un sorriso dolce. Questa voce oggi cercheremo di recuperare, di avere, anche perché lavorando sulla voce si lavora sulle emozioni, sul nostro benessere interiore e anche sul benessere che vogliamo comunicare agli altri. Ne abbiamo parlato tante volte anche col professor Perna, anche una ricerca è andata proprio a misurare questo effetto. Le emozioni, oltre a sentirle, adesso si possono anche vedere. Ad affermarlo è uno studio condotto da un gruppo di studiosi dell'Università di Ginevra in Svizzera, guidati da Thomas et Hofer, e pubblicato su Current Biology, secondo il quale, dai segnali che il cervello elabora, si può leggere se una persona ha appena ascoltato parole che indicano rabbia, gioia, sollievo o tristezza. Lo studio è il primo a dimostrare che le diverse informazioni emotive vengono rappresentate nel cervello da differenti segnali, uguali in tutti gli uomini. La corretta interpretazione dell'emozione espressa attraverso la voce, spiega Hofer, è molto importante, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui i segnali emotivi visivi spesso non sono disponibili, come quando si parla al telefono. Una ricerca che abbiamo tratto da Salute 24, un portale su cui vi invito sempre ad andare a fare un saltino, ricco di informazioni molto approfondite, consigli pratici. Ricordatevi anche il nostro Daily Lab, la nostra guida quotidiana al benessere. Ma noi ritorniamo al tema di oggi: rabbia, emozioni negative, emozioni positive. Possiamo in qualche modo modificarle? Ciro, tu lavori soprattutto sulla voce e sì, hai ideato un metodo alla voce, hai dato diversi colori, ce li vuoi raccontare? Sì, è un metodo nel quale praticamente parto dall'idea che tutti quanti non possiamo fare a meno di emozionare, no? quando parliamo, perché la voce crea delle emozioni, solo che nessuno sa esattamente quali siano queste emozioni. Quindi dal momento che ho degli studi in psicologia, ho fatto il doppiatore, ho cercato di capire quali fossero i modi in cui la voce si esprimeva e ho scoperto che ci sono 6 emozioni prevalenti, 2 negative e 4 positive. Le 2 negative sono la voce grigia, che è l'apatia, che è quella di quando parli dicendo cose belle con una voce priva di emozionalità bella, o la voce nera, appunto quella della rabbia, e poi 4 emozioni positive, che sono la voce della simpatia, quella gialla, la voce dell'empatia, quella verde che facevamo prima, la voce dell'autorevolezza, quella blu, e la voce rossa, che è quella della passione. Tutto questo si disegna anche nel nostro cervello, professor Perna? Sicuramente sì, si disegna perché non esiste un organo dell'emozione in senso univoco. Esistono tanti sistemi diversi che sono legati a emozioni differenti. Addirittura la rabbia attiva il cervello in maniera differente a seconda del tipo di rabbia. Quando la rabbia è positiva, vuol dire che serve per affrontare un ostacolo. Quindi noi ci troviamo davanti a un ostacolo, con la rabbia lo superiamo. In quel caso lì si attiva la parte sinistra del cervello, che è la parte in qualche maniera legata alle emozioni positive. Mentre quando abbiamo una rabbia che diventa più rancore, abbiamo l'attivazione della parte destra. Quindi proprio esiste un connotato diverso. Sarà interessante, o è interessantissimo, sapere che nella cultura buddista il significato della rabbia non è univoco. La rabbia è sia un'emozione positiva che un'emozione negativa, proprio a seconda del fatto che sia costruttiva o distruttiva. Il rancore è l'espressione peggiore dell'emozione negativa e della rabbia. C'è chi esplode, professor Perna, e c'è chi invece tiene tutto dentro, ma la rabbia logora, non a caso si dice mi sono roso il fegato dalla rabbia, segno che la rabbia repressa ha delle ricadute. E in linea con noi abbiamo il professor Francesco Padrini, psicoterapeuta, buongiorno, ed esperto del linguaggio del corpo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Certamente la rabbia è un sentimento che io chiamo un sentimento caldo, a differenza per esempio dell'odio, che è un sentimento freddo. Quindi bisogna stare attenti a non mettere, come si suol dire, la rabbia in freezer, perché sennò, ahimè, diventa più problematica la situazione. Ma la rabbia come sentimento caldo certamente va anche espressa, proprio per evitare che ristagni, che questo sentimento poi si tenda a viverlo in modo prolungato nel tempo. Non appena nutrita la rabbia muore, è il digiuno che la ingrassa, recita così un verso di Emily Dickinson, che ci dimostra che la rabbia va in qualche modo smaltita, o meglio ben gestita, professor Perna. Anche biologicamente, nel momento in cui noi abbiamo un'esplosione di rabbia o un'esplosione anche di un'emozione, ma questa a un certo punto ritorna allo stato di calma rapidamente, questo vuol dire che l'emozione è sana. Il problema è quando l'esplosione dell'emozione rimane costante, allora attiva nel corpo una serie di sostanze che alla lunga sono tossiche, creano quello che è lo stress. Quindi il problema non è arrabbiarsi, il problema è restare arrabbiati. Assolutamente sì. Certo. Mi hai fatto venire l'ulcera per quante arrabbiature mi hai dato. Professore Padrini, c'è un risvolto non solamente a livello di psiche ma anche a livello di soma? Ma certo, noi sappiamo che davanti a noi, nel petto, ci sono i sentimenti dolci, teneri, e dietro, nella schiena, ci sono, dove parte la rabbia, sono i sentimenti più aggressivi e che vanno espressi. Ed ecco che laddove è possibile realizzarlo, ci sono proprio degli esercizi anche psicofisici che ci aiutano a scaricare quell'elemento, quella valenza di tensione che poi diventa interferente nella relazione quotidiana, e sono esercizi proprio pratici, per esempio percuotere con i pugni un cuscino o con un battipanni, percuotere il vecchio battipanni della nonna, percuotere il famoso materasso, e questo ci aiuta proprio a attivare questo livello di scarica. C'era un bel detto che utilizzo spesso, che è molto orientale, che dice che qualunque decisione uno debba prendere deve aspettare 3 giorni dopo che ha avuto l'emozione forte. Questo perché altrimenti l'emozione rischia di condizionare molto. Quindi arrivate a prendere una decisione per qualche cosa che vi ha colpito, aspettate 3 giorni. Se confermate la decisione, allora prendetela, altrimenti rivalutatela. Gli orientali aspettano 3 giorni, noi diciamo prima di scoppiare conta fino a 10. Sì. E in questi, no, nel contare fino a 10 uno può riuscire ad impostare un po' la voce. Ma sì, più che altro perché... A lavorare sulla voce. Sì, assolutamente. La voce può aiutarci ad eliminare proprio quel permanere della rabbia che diventa una cosa molto negativa, perché è verissimo che la rabbia va evidentemente quindi sfogata, perché altrimenti stiamo malissimo, ci capita di tutto, ma possiamo anche abituarci pian piano a provare meno rabbia, perché se ci abituiamo ad avere un modo col quale ci rapportiamo con noi stessi e con gli altri, generando delle vibrazioni benefiche, la voce, essendo un suono, è in grado di generare sia in noi che negli altri, infatti gli orientali hanno i mantra che sono vocali, che consentono proprio di rilassarsi, di portare il cervello in ritmo alfa, e attraverso la voce possiamo creare in noi e negli altri uno stato di benessere che ci aiuterà nel corso del tempo ad allontanare sempre di più quella rabbia negativa, che è quella che permane e che crea lo stress. Professor Padrini, prima di salutarla, qual è l'ultima volta che si è arrabbiato, quando si è arrabbiato di recente? Ma capita nella quotidianità, qualche contrattempo, di poter rimanere tutti arrossati dalla rabbia. In questo senso qui, certamente, come diceva giustamente precedentemente colui che stava parlando poco fa, è certamente bisogna vedere di fare un pochino di... Insomma, non mi vuole raccontare che cosa la fa arrabbiare. Forse un mi tipo... fanno arrabbiare tutti i contrattempi della quotidianità. Certo. Meno male che ci sono. Così... Però è importante poterla elaborare, esprimere e ritrovare l'equilibrio quanto prima. Grazie professor Padrini per essere stato con noi. Abbiamo Angela dalla provincia di Bergamo, Maria Rosa dalla provincia di Monza e Brianza, Dania da Livorno, Luca dalla provincia di Venezia, insomma una carrellata di voci, perché oggi proviamo, Giro, possiamo provare anche a fare una sorta di test della Come nostra no? voce? Certo, anzi, con molto piacere. Ad esempio, noi ci offriamo volontari, il professor Perna, io, insomma, siamo qua, così se ci dici già una cosa che non ci piace passiamo subito alle mani, ma chiedo ai nostri ascoltatori, oltre che a raccontarci la loro rabbia, come la gestiscono, a darci una definizione, perché sceglieremo 4 di voi nei vari Facebook piuttosto che SMS, telefono, mail, per farvi ricevere a casa il libro di Ciro Imparato, ma volevo chiedervi di approfittare della puntata di oggi per capire il colore che ha la vostra voce e come aggiungere colore alla vostra voce. Angelo, buongiorno, dalla provincia di Bergamo. Voce gialla? Sì. Angelo, buongiorno. Grazie che mi avete chiamato. Per me è già una grossa soddisfazione avermi chiamato in questo momento, perché non avrei pensato che potevate chiamarmi. Angelo, basta fare il nostro numero verde e noi, voilà, sì, mi mettiamo in onda. Grazie. Io sono un Radio 24 dipendente. Ah, bravissimo. Allora, ascolto dalla mattina dalle 7 fino alla sera da Cuciani in poi. Quindi, quando insomma, sono in macchina. È un Radio 24, quindi la sua voce, esatto, già mi piace. Ma che cosa ci voleva raccontare Angelo? Dunque, io, facendo l'agente di commercio, giornalmente sono soggetto a sottomatizzare la sì. parte sul plesso solare, però facendo anche dei rilassamenti sì. riesco anche a scaricare, però alla sera io ho bisogno di mettermi in ginocchio, sì. mettermi davanti un cuscino, quelle persone che mi hanno trovato veramente colmo, e scaricare la mia rabbia proprio su quel cuscino. Lo cambia spesso il cuscino? No, è sempre quello. È sempre quello, quindi voglio dire, sì, si scarica anche in modo... e non si rompe. Ah, si appro... lei sfoga la rabbia così, Angelo? Sì, in quel modo lì. Professor Perna. Ma ci sono tante possibilità, io talvolta dico anche alle persone di comprarsi un sacco, di metterlo in cantina, no, se proprio deve, quindi scendere e sfogarsi. Una cosa importante che è stata detta, ma che mi è venuto in mente mentre parlavamo, è la cruciale importanza della respirazione. Noi sappiamo che la respirazione è un asse centrale, un elemento chiave nel rilassamento. E la respirazione è cruciale nella voce, quindi evidentemente la capacità di gestire una corretta respirazione ci permette di modulare la voce, poi imparato sicuramente di questo ne saprà moltissimo perché è un punto centrale e quindi la capacità di comunicare dipende anche dalla padronanza di una funzione così importante per il nostro benessere come la respirazione. Voglio leggerti, Ciro, un messaggio da Mirko da Ferrara. Ultimamente ruggisco, mi scarico e mi rilasso all'istante. Sì, è una cosa che evidentemente è molto utile, scaricarsi in questo modo, ruggire, si può fare di tutto veramente per scaricarsi. Il punto è che bisogna riuscire a farlo in maniera sana e non abituandosi ad avere soltanto questo tipo di modalità, perché altrimenti le nostre relazioni sociali e le nostre relazioni anche con noi stessi rischiano poi di essere inficiate. E questo lavoro tu lo porterai proprio in un convegno importante a cui parteciperai sì, proprio questo weekend proprio. Sì, ho avuto il grande onore di essere invitato ufficialmente dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Sofia in Bulgaria per parlare del metodo Four Voice Colors per generare emozioni con quindi la voce. Quindi porterai colore al convegno. Porterò colore. E noi continueremo a portare colore alle vostre voci. 800 24 00 24. Maria Rosa, Dani e Luca ci accompagnano nei mercati e nel meteo, poi voce a loro per la gestione delle emozioni, non solo della rabbia. Essere e benessere. Dottor Raidel, ero seduto accanto a lei in aereo. Ah, sì, sì, sì. E il tizio delle cuffie. Già, mi fa piacere rivederla. È piacere mio. È stato proprio un volo folle. Pensi che mi hanno condannato a una terapia per controllare la rabbia? Sul serio? Vero? Già. Non è incredibile? Le dispiace firmarmi queste carte e dire che non ho problemi di rabbia? Non posso limitarmi a firmarti le carte. Io non ho fatto niente di male, però lei lo sa. D'accordo. Facciamo così. Tu fermati a una seduta, così posso dire almeno di averti adeguatamente analizzato. Così poi ti firmo le carte. D'accordo. Allora, David, raccontaci un po' di te. Sono una persona per bene e mi piace giocare a tennis ogni tanto. No, scusa. Non ci dire i tuoi hobby, David, è una cosa semplice, dici chi sei. Io sono un ragazzo tranquillo, pacifico, magari un po' indeciso certe volte, ma... David, tu stai descrivendo la tua personalità e io voglio sapere, tu chi sei? Io non capisco che cavolo vuole che dica. Da terapia d'urto, anche noi in fondo oggi facciamo una sorta di... corso per la gestione della rabbia. Dobbiamo imparare a riconoscere, dobbiamo buttarla fuori quel tanto che basta, dobbiamo anche prepararci a non ricadere nelle situazioni di rabbia, perché poi finisce che chi si arrabbia spesso tende a rivivere le stesse situazioni e anche la nostra salute non ne guadagna, oltre che il nostro rapporto con gli altri. 800 24 00 24, con tutti questi colori non so più che voce fare. Maria Rosa, dalla provincia di Monza e Brianza, benvenuta. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Ecco, la sua voce naturalmente mi tranquillizza, non mi fa arrabbiare. Oh, che bella cosa. Ecco. Lo dica, ci ero imparato. Io sono una Radio 24 dipendente che dalla mattina alle 7 fino, vabbè, io tutta la mattina ascolto la radio e la più, vabbè dai, non voglio... esagerare. Comunque, e quindi si arrabbia spesso, mai riesce a gestirla, la tiene dentro, la tiene fuori, che cosa la fa arrabbiare? Ha una ricetta antirabbia? Vogliamo dare qualche libro di Ciro Imparato al contributo più interessante? Allora, io sono una persona abbastanza tranquilla, però quando mi arrabbio, non spesso, tendo a non mangiare, digiuno. Mi si chiude lo stomaco. Ecco, quando si dice l'effetto, no, ha dei risvolti e delle ricadute a livello proprio anche non solamente mentale ma anche fisico, altra qualche cosa del... Infatti si chiude lo stomaco, è normale, vero professor Perna? Capita in alcuni? Direi di sì, perché le emozioni molto forti in qualche maniera sequestrano le energie della persona e anche il sangue stesso dalle zone inutili, quindi quando noi dobbiamo combattere, affrontare un nemico, un problema, forse la digestione è meno importante, per quel motivo lì tendiamo a sequestrarlo da quel punto di vista. C'è chi perde la fame, c'è chi perde il sonno dalla rabbia, ma Ciro, vogliamo analizzare anche la voce dei nostri ascoltatori? Quando parlano tu puoi fare una sorta di test? Beh, la signora diceva capire. Sono molto calma e la sua voce... era una voce verde? Era una voce, diciamo, mediamente giallo-verde, con un buon sorriso. Credo che lei in questo momento sia molto contenta di parlare con te, Nicoletta. E allora possiamo? Sì, credo proprio di sì. Possiamo dare il libro alla nostra ascoltatrice, così magari le si chiude lo stomaco per la rabbia, ma le si apre un po' si aprono le potenzialità della sua voce, dei colori della voce. Penso di sì, perché proprio come dicevi tu prima, c'è una sorta di dipendenza, no, dalla rabbia, che a un certo momento diventa, perché noi quando ci arrabbiamo produciamo delle sostanze chimiche nel corpo, di cui a un certo momento cominciamo ad aver bisogno, per cui se lo strumento attraverso il quale sto bene e la rabbia, poi diventerà sempre quello lo strumento che userò. E allora possiamo fare qualcosa come antidoto utilizzando la voce per arrabbiarci di meno. Dania, da Livorno, buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, io la rabbia non la so gestire, per me è qualcosa che nasce dentro e deve sfogare. Quindi questa emozione non la reprimo mai, ma la agisco sempre in malo modo, attacco, urlo, smatteggio e soprattutto vado a ricercare anche le cose accadute 10 anni prima, se sono nel contesto giusto. Se poi sono certa anche di aver ragione al 100%, allora lì non la tiene più nessuno, Dania. Appunto, non do modo neanche all'altro di controbattere. Però dopo tutto questo io dopo sto bene, quindi ecco. Cioè, io la sfogo sempre. Bene, Dania, perché lei ci ha dato un'informazione importante, sta bene. Sì. E invece ci sono delle persone che si sfogano ma poi stanno male. Quindi il dopo rabbia, il dopo esplosione di rabbia, professor Perna, ci dà anche molte informazioni sulla persona, se la gestisce bene, se esplodere fa bene, le fa bene in questo caso, oppure no. Abbiamo due livelli, uno è il livello personale, cioè quello che succede a noi, il secondo è quello sociale. Quindi il problema di una persona che sfoga le proprie emozioni in maniera molto forte e che si sente bene e che rischia di mettere poi in delicata situazione il rapporto con gli altri. Quindi ricordiamoci sempre che l'emozione è sicuramente qualcosa di profondo, qualcosa di non così facilmente controllabile dalla ragione e la volontà, però esiste anche una volontà, quindi esiste una parte del cervello che è capace in qualche maniera di dare degli impulsi e controllare la rabbia. Faccio un esempio interessante. Sì. Molte persone di quelle che sono diventate aggressive, quindi parliamo dei violenti, no? Quindi parliamo anche dei serial killer, hanno avuto dei danni a livello della testa, cioè hanno preso delle botte in testa molto forti o dei danni a livello della corteccia frontale. La corteccia frontale, cioè quella parte del cervello che abbiamo proprio davanti alla testa, sì, dietro la fronte, è quella che in qualche maniera tiene le briglie alla parte emotiva. Quindi se questa è matura e funziona bene, riusciamo ad avere un giusto bilanciamento fra le nostre emozioni che sono potenti e la capacità di controllo. Se questa parte non funziona bene, è danneggiata per qualche motivo, ecco che l'istinto prende il sopravvento. Una cosa molto importante è che bisogna sempre costantemente sentire quello, quindi sfogare quello che sentiamo, ma non sempre quello che sentiamo deve essere arrabbiato, perché siamo abituati in un certo modo a sfogare la rabbia oppure a non sentirla. Il fatto del controllo delle emozioni è molto importante, chiarire cosa si intende per controllo. Non si intende reprimere mai e per nessun motivo al mondo, ma riuscire ad avere quella capacità attraverso i comportamenti giusti anche di socializzazione di non farsi montare più questa rabbia, che in grande parte evidentemente è una cosa genetica, ma che in parte può essere anche condizionato dal comportamento e dall'abitudine. E cambiare si può, tu lo insegni nel tuo libro. Sì. 21 giorni, professor Perna, ci vogliono 21 giorni per rendere efficace il cambiamento. sedimentare quello che abbiamo imparato e metterlo in atto. Sì, perché poi il processo deve essere automatico. Cioè, se io, ad esempio, è sicuro che dopo che una persona parla per un certo periodo con una voce che crea uno stato di tranquillità, di calma, sia lui stesso o lei stessa, sia le persone attorno, cominceranno a sentirsi più calme, più rilassate, specie se è presente un certo sorriso e se gli argomenti di cui si parla sono argomenti anche condivisi. Ma perché questa cosa diventi un fatto automatico e quindi diventi parte della persona, della personalità dell'individuo, occorre che scattino proprio degli automatismi, che sono automatismi fisici, non automatismi mentali. Quindi non posso decidere tutti i giorni adesso devo essere calmo, certo, perché farei esattamente l'effetto contrario, otterrei. E devo abituarmi semplicemente ad avere per un certo periodo costantemente la voce che parla in un certo modo. Che e 21 questa? Giorni che sostanzialmente che questa è questa qui. Ritmo, dimmelo. Il volume medio basso, volume, tono basso, tempo lento, pause esitanti e sorriso dolce. Essere e benessere. Ero arrabbiato con il mio amico. Gli dissi della mia rabbia e la rabbia sparì. Ero arrabbiato con il mio nemico. Non gli dissi della mia rabbia. La mia rabbia aumentò. William Blake. Abbiamo messo questa frase perché secondo noi, mi sono confrontata con Laura Vanossi, poteva aiutarci a avere un suggerimento in più nella gestione della nostra rabbia. Professor Perna, lei è d'accordo? Sono d'accordo e sono soprattutto d'accordo che dobbiamo gestire la rabbia non solo la nostra ma anche quella degli altri. Facciamo bravo, un esempio. Qua vorrei se io arrivare. Mi arrabbio e con la mia arrabbiatura ottengo delle cose, imparerò che devo arrabbiarmi sempre. Quindi se noi riusciamo a insegnare alla persona che ci sta davanti e che è rabbiosa, che così non ottiene nulla, lui cambierà il suo comportamento. Quindi questa è una regola semplice ma importante. Da fare, da insegnare anche ai bambini. Sì, eh? Sì, assolutamente. Una cosa importante ad esempio che capita spesso nelle aziende è che i manager, gli imprenditori dicono: io quando mi arrabbio ottengo sempre quello che voglio, quando pesto i piedi ottengo quello che voglio. Può essere vero, può non essere vero, ma a che prezzo si ottengono queste? Il concetto è a che cosa devo rinunciare, e c'è una possibilità alternativa di fare qualche cosa per ottenere gli stessi risultati. Con i bambini è fondamentale, perché con i bambini, ad esempio, la cosa nella quale le mamme si arrabbiano di più, si può riuscire attraverso una particolare comunicazione a ottenere la stessa cosa con i bambini, anzi meglio, ma senza perdere insomma la calma. Tra l'altro il potere della voce diventa oggetto di una ricerca molto interessante. Stavo pensando a quanto la voce condizioni sia un elemento importante, professor Perna, nella relazione medico-paziente. Quante cose lei trae dalla voce del suo paziente e quante cose trasmette parlando con il suo paziente. Adesso il lavoro di Ciro Imparato sarà appunto preso e rielaborato anche in una ricerca proprio basata su questa relazione. Sì, uno psichiatra, il professor Roberto Marino, che dirige il centro EOS di Pavia, all'interno di un insomma ci siamo parlati e mi ha chiesto di provare a vedere se questa voce verde poteva essere utile per migliorare proprio il rapporto con i pazienti. Allora posso raccontare minimamente la ricerca, quello che è stato fatto. Praticamente avevano dei pazienti psichiatrici piuttosto in stallo terapeutico, quindi pazienti che non avevano una risposta, ecco. E allora hanno sottoposto questi pazienti a dei test, quindi hanno fatto dei test per valutare gli stati di ansia eccetera, e poi hanno cominciato a erogare la stessa terapia di prima ma cambiando la voce. Io avevo insegnato loro come si usa, certo, la voce verde in terapia, e quindi hanno cominciato a parlare con questi pazienti sempre in maniera molto calma e creando nel paziente uno stato di rilassamento e abbassando quindi tendenzialmente le barriere e le difese. Tutti e 13 i pazienti alla fine di questo trattamento, che è durato 3 mesi, hanno avuto significativi miglioramenti da un punto di vista proprio terapeutico. Quindi sono piccoli numeri ma che raccontano una grande verità, professor Perna. Ci dicono che il modo in cui noi comunichiamo è fondamentale al di là di quello che noi facciamo. E quindi è molto importante ricordarsi che esiste un effetto aspecifico nelle cure, cioè in qualsiasi cura esiste una quota, no? Sì. Che è almeno di un terzo di un effetto che non è dovuto a un farmaco o a una psicoterapia, è dovuto a un fattore relazionale. Il fattore relazionale implica anche la voce. La voce è il modo in cui noi trasmettiamo sicurezza, fiducia, forza, e sicuramente vedere un paziente la voce del paziente ci dice moltissimo. Certo. Quanto è insicuro, quanto è paura, quanta fiducia ha, quanto è freddo in quel momento, quindi dà quella informazione che permette poi al clinico di fare una diagnosi più accurata. E io aggiungerei, portiamo anche un po' di colore, di voci colorate anche in famiglia, perché spesso diamo tutto per scontato, molte comunicazioni familiari sono di colore grigio, tendenzialmente sì. Non abbiamo più tanto, sappiamo che l'altro ci ama e che l'altro sa che noi lo amiamo, allora perché? Ecco, quindi la raccomandazione è usiamo il colore anche in famiglia. I libri, abbiamo scelto insieme a Ciro un libro da far ricevere, da far recapitare a Lina, che ci ha scritto Io non mi arrabbio, sono diversamente calma, ci è sembrata una definizione bellissima, molto carina. Sulle mail, una mail che ci ha scritto Mauro, che richiede proprio, ha bisogno di un aiuto, quindi sicuramente il libro di Ciro potrà aiutarlo. Sono cronicamente incapace di gestire la rabbia, quando litigo veramente mi si svuota la testa, accelera il battito cardiaco, salivazione azzerata e scarsa concentrazione nell'esporre le mie ragioni. Una catastrofe, quindi qua, come diceva Ciro, c'è bisogno di gestire un pochino la rabbia, e sicuramente esercitandosi 5 minuti al giorno forse ce la si può fare. Andiamo da Giovanna, dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Giovanna non risponde. Francesca da Milano. Buongiorno. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Devo raccontare della mia rabbia, allora provo. Io ho emozioni molto forti da sempre, per cui chiaramente le esprimo. Ho imparato, ed è verissimo tutto quanto avete detto finora, perché è stato un percorso, ed è verissimo per esempio che fa molto male tenere le rabbie represse. Quando ero giovane non riuscivo a manifestare più di tanto, per cui insomma covavo dei rancori, perché mi aspettavo sempre che gli altri capissero più di quanto No, non capiscono. A manifestare. Però vabbè, avevo diciamo 14-16 anni, poi ho cominciato da sempre un discorso di introspezione legato alla psicologia junghiana, all'astrologia, che ormai pratico da 40 anni, e naturalmente tante cose le ho, tra virgolette, diciamo, non risolte, ma le ho affrontate, per cui... Brava! Ecco, però mi piace comunque sempre esprimere la rabbia, cioè deve sempre venire fuori in qualche modo. Non ho una voce verde, probabilmente. Che voce ha Ciro? Ha una voce dolcissima, e infatti si fa una fatica incredibile a pensare che questa persona, sentendo la voce, sia una persona che si arrabbia. E provi a fare la voce arrabbiata. Ciro ha una voce meravigliosa, mi ha incantato. Quando io l'ho sentito per radio sono rimasta incantata. Al di là la voce dici, ma anche sono adesso, sempre importante. No, ma adesso scusi, Francesca, e adesso qua devo arrabbiarmi io. Non mi dice niente della voce del professor Perna. Bellissima, anche quella, bellissima. Assolutamente. Però diciamo sì, che le vibrazioni equilibrate e basse mi hanno incantata, poi sai, è soggettivo. No, vabbè, d'altra parte lui ci marcia sempre anche un po', adesso, perché i contenuti sono sempre importantissimi. Grazie a Francesca. Allora, conquistata dalla voce di Ciro, è imparato. Io vorrei invece, dato che molti di voi mi hanno scritto che cosa fanno quando si arrabbiano, ho due amiche che una volta al mese vanno in cima ad un monte ad urlare per scaricarsi. Mi è arrivato un SMS a cui possiamo far arrivare il quarto libro, Ciro, perché sì, è carino, sì, me lo sì, vedo. Sì, sì, sì. Io entrerei in cucina, perché quando noi siamo arrabbiati molte persone si buttano sul cibo. Invece io direi, proviamo a trasformare la rabbia in creatività. Facciamo qualcosa. Allora ho chiamato un grande amico, che è un grande cuoco, che è un cuoco stellato, lo sapete anche voi, è Andrea Ribaldoni, chef della fermata e autore con Paola Reverso del libro Un cuoco in famiglia, un cuoco a essere benessere. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Nico e buongiorno. Allora Andrea, tu ti arrabbierai anche, cioè in cucina io penso che ci si arrabbi abbastanza di frequente, o no? Ma guarda, la cucina, avete ragione, è molto molto utile per chi è rabbioso, perché se uno fa dei gesti ripetitivi, pensiamo, non so, pelare le cipolle o le patate, aiuta a distendersi, aiuta tantissimo. Magari evitate di usare troppi coltelli, quindi di tagliarvi se siete molto molto nervosi. E le cipolle, ecco, prendete, se dovete affettare le cipolle, il consiglio è mettetele prima nell'acqua, sennò piangete. Ma sì, anche piangere aiuta, quindi le emozioni si scaricano, va benissimo. Io, guarda, lo trovo fantastico. Quando sono nervoso davvero, sì, faccio patate e cipolle, faccio una bellissima zuppa di patate e cipolle, io lo trovo meraviglioso. Uno si mette lì tranquillo, pela patate, pela cipolle, affetta tutto e fa questa È vero, bella zuppa. Piace molto anche al nostro professor Perna. E senti, se facessimo, che ne so, una maionese, uno zabaione, qualcosa che no, ci scarica, invece che strozzare l'amico, prepariamo qualcosa di questo tipo, anche qualcosa magari di dolce come lo zabaione. Guarda, secondo me lo zabaione è un'altra cosa fantastica da fare quando si è nervosi, perché ti permette appunto di non pensare e con la frusta continuamente di fare un gesto ripetitivo. Quindi il nostro menù antirabbia, devo salutarvi, ma Andrea ci ha dato patate, una zuppa, patate e cipolle, per chiudere uno zabaione. Grazie ad Andrea Ribaldoni. Il sito lavoce.net per di Ciro Imparato, molti di voi l'hanno chiesto. Professor Perna, lei ha una voce magnifica, meglio ancora di Ciro Imparato. Grazie a Ciro Imparato per essere stato con noi. Grazie a voi, appuntamento a domani. Essere e benessere.